Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Quando parli sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu, e poi con quella voce martellante che ti prende dal cervello. Ma come si fa a ascoltare una persona così di prima mattina? Yeah, listen. I'm on seven with Jamaica, doing mountain, shining down the river. All my friends there, pulling on those dreams, younger than the mountain. Dicono che 41 comuni sono stati assegnati al centro-sinistra, 23 al centro-destra, 14 alle liste civiche e 1 ai 5 stelle. Questi sono i dati dei comuni sopra i 15.000 abitanti. Vediamo, mi ha parlato come una stiamo parlando di una città che non raggiunge 900.000 abitanti. Ma non c'entra, non so, è un ma simbolo, cosa, come è un non c'entra? Come ma che cosa, ma simbolo, ma ci prendiamo in come giro, Pistoia. Santanché è una città sì, che non raggiunge 900.000 abitanti. Quella di, io di Genova la ridimensionerei. Sono molto contento di dire che non si poteva votare il 24, che la giornata di oggi è una giornata di sole, non si può votare, eccetera. Per settimane siamo stati tutti assillati dal fatto che bisognava votare il 17 o il 24 settembre, a proposito della partecipazione. Qualcuno ha vinto, ha perso le elezioni non facendo un solo comizio. Renzi probabilmente sarà il conduttore di chi l'ha visto l'anno prossimo. Per me la politica è anche consumare le suole delle scarpe. Beh, ma questa versione peraltro stile proprio non John Denver è magnifica, eh? West Jamaica, rock duro. No, non è proprio rock duro. No, Vincenzo, cominciamo con la precisione. È un po' reggae style, su. Che spettacolo, che oh, spettacolo. Oh, sei pronto? Allora, tutto qua è pronto, caro Vincenzo. Il contrattino mi sa che è firmato. Sei pronto a condurre versione 4.0 24 mattino? Noi siamo felici, siamo contenti, siamo sollevati di tutto questo. Spero anche te. 13.000 euro netti al mese. Vabbè, questo è quello che hai strappato in tempi duri, in tempi duri. Allora, signori, qua vi ricordo che a Pescara ci sono 23 gradi, come ci dice Luciano, mentre, scusami, Scaldaferro di Pozzo Leone. Però mi dicono Vicenza, 19 gradi, Scaldaferro di Pozzo Leone, tu, esiste, esiste. Bene. A Gradisca di Sonzo, 21 gradi, cielo coperto, un caro saluto Piero anche a te. A Rimini 26 gradi, cielo parzialmente nuvoloso, grazie, grazie, grazie. In tangenziale est di Milano 21 gradi, piovigina. Scusa un attimo Lorenzo, Tremalzo, 10 gradi, quindi deve essere al nord in montagna, Tremalzo. Sul lago di Garda. visto che sei lì, guarda un attimo anche Candeglia, 21 gradi, Andrea, buongiorno, Andrea. Guarda che se mi paraculate io... Pistoia, Candeglia, Pistoia, salutiamo Candeglia. Siracusa, 28 gradi, buona giornata, grazie Seba, anche a te. Ad Arcene, Bergamo, 21 gradi, grazie Giuseppe. Arcene esiste e lo sa bene anche la nostra bergamasca preferita, la nostra Aurorina Lussana, signori. Sarà... che ci parla però da straniera, da giargianese, da emigrata a Cantù liberata, Cantù leghista, Cantù mai musulmana, Cantù... devo fermarmi però anche te, cosa stai sentendo sotto? Milan, no, sai cos'è che... Cosa senti? Despacito, no, cos'è? Domenica sera che c'è sulla musica il Davide Van de Sproos. Il Davide Van de Sproos, sì, signore. Dai, l'aido del lago di Como, che non lo conosce. Vabbè. Sono sfinita, quindi non lo so. Sei sfinita dai festeggiamenti, signori. È sfinita dai festeggiamenti. Cantù è tornata leghista. No, non lo so, guarda. È una roba, cioè, guarda. Poi veramente questa cosa qui, cioè proprio abbiamo fatto il triplete abbiamo fatto il triplete, perché che tiro giù il Davide, perché se no non che triplete che cosa il triplete di che? Questa è musica, la balera del Davide Van de Sproos, sì, ma il triplete perché vabbè il triplete ce lo fa scusare. Come il triplete, abbiamo fatto il triplete Milan, il triplete Abbiamo vinto a Como, tac. Abbiamo vinto a Erba, tac. Abbiamo vinto a Cantù. Ah, tac, Como, Erba, Cantù. Como, Erba, Cantù. Il triplete, altro che la Juve, signori. Applaudo io. Como, Erba, Cantù. Ma Dio mio, mamma mia. Per tutta la giornata oggi. Vabbè. Chissà quale di questi paesi è stato visitato dal nostro quasi omonimo Carlo Rienzi, che salutiamo, presidente del Codacons. Rienzi, buongiorno, avvocato, buongiorno. Sei mai stato a Erba? No. A Cantù? Di passaggio. A Como, sì. A Como, sì. Como, sì. È il triplete della Lega. Como, Erba, Cantù. Hanno perso Padova, per esempio. Hanno perso. Però Como, Erba, Cantù. Io te l'avevo detto, è venuta la Madonna di Fatima. Stanno a cavallo gli abitanti Stava a cavallo, sì. Como, Erba e Cantù fanno un trigemellaggio. Oh, signori, dai, apriamo il Parlamento. Qui la verità è che c'è uno che dice che non ha perso. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Matteo Renzi, ma ieri quando Ricci, anche da noi, ha snocciolato questi dati, abbiamo vinto, siamo stati in maggioranza, insomma, in alcuni comuni, eccetera. Anch'io ero un po'... Vabbè, oh, ragazzi, qua è lo sport nazionale delle elezioni. Dopo le elezioni tutti hanno vinto e nessuno ha perso. Anche quelli che hanno vinto hanno vinto, quelli che hanno perso hanno vinto comunque, hanno vintucchiato E avanti così. La vera novità è che Renzi pare dica, quasi omonimo, Renzi pare dica basta coalizioni. Pare che qualcuno dica non parlateli più di Pisapia, di coalizioni. Cioè, lui vuole tornare alla rottamazione. Ha preso non c'è più una china ormai che ha ragione la Lega, che dice che tra un po' andrà... Ramengo. No, ma furia di rottamare, rottama, se non ti ritrovi più nessuno a fianco, quando hai rottamato tutti. Ma poi dovrebbe a questo punto un attimo fare un passo indietro, probabilmente. Non dico Prodi, però potrebbe essere la Prodi un potrebbe po' anziano. Prodi potrebbe essere la soluzione. Però ecco, mi sembra il PD dovrebbe fare una riflessione seria e togliere queste di mezzo questo desiderio sfrenato di successo che hanno alcuni suoi leader, e cercare di ritornare a essere un partito che cerca di capire la gente che cosa vuole da esso. Ma partito. Invece vorrei capire, ma perché continui a ridacchiare, Aurora? Cosa c'è da ridacchiare? No, mi è venuta a grignare la domenica sera. Ascolta. Basta. No, te l'avevo detto. Allora, da quant'è che ti dico che il ragazzo è nervoso, che Renzi è lì nella sua taverna a Pontassieve con l'Agnese, coi figlioli, e prima era lì a Palazzo Chigi in giro con la Boschi, girava il mondo, andava dallo amico Obama. Eccola, è nervoso da tempo, però quella roba qui che dicevi te del Ricci, che dicono che hanno vinto, a me ricorda una patologia. Cioè? Allora, attenzione. Qual è quella patologia? La sindrome di Renzi, dobbiamo iniziare. La sindrome, allora, si dice che se uno mente gratuitamente, anche se non è necessario, è seduttivo, intollerante alle critiche, è incapace di instaurare relazioni affettive mature, tende a essere manipolativo, è la sindrome del bugiardo patologico. La sindrome del bugiardo patologico. Mi pare che ce l'hanno tutti i politici. Esatto, cioè non è che adesso non è che magari non è che buoni e cattivi, non è che c'è quello il politico, non è il politico sincero. Però ha un difficile rapporto con la realtà, dai. Ha un difficile rapporto con la realtà. Ma insomma anche Berlusconi dice che ha vinto. In realtà il centrodestra va detto, Renzi, qua abbiamo un esponente, è più attrazione leghista, diciamolo, qua ecco perché gongola la nostra Aurora. Ma io non sono convinto. No. Penso che il fascino di Berlusconi e la sua sempre capacità di essere un grande imprenditore, anche se adesso è venuto un po' meno, se non fosse stata così abbacchiata dal problema delle ragazze, avrebbe potuto ancora fare molto ancora la farà, perché c'è sempre questa illusione. Guarda qua il messaggero, Salvini pronto a guidare il centrodestra, ma dai, su, deve fare sto ragazzo, ha fatto una campagna elettorale perfetta perché si è giocato benissimo questa partita di ma chi lo vota Cefalù? Ma dimmi te, ma chi lo vota a Cefalù? Chi lo vota a Trani? A Trani? Chi lo vota a Trani, Salvini? Cioè, se fa il leader del centrodestra. Renzi lo vota, ma non lo so se Renzi lo votano, ma voglio dire, ma come per principio, come fa Salvini ad andare a prendere i voti a Trani? Questo ci vuole dire anche Renzi, no? Mentre Berlusconi li può prendere, nel senso, poi non lo so se... Infatti, ma è dimostrato questo. Beh, questa politica della Lega, che poteva essere molto migliore, diciamo la verità, si è troppo legata a questa aggressività nei confronti degli stranieri, di quelli del sud. Tutti da Ventimiglia da Macron, che vale da Macron. Dal Macron. Sono mica lì che vogliono andare a Ventimiglia, ma che li faccia passare il Macron, che vadano da Roma. Vedi, e vuol prendere voti e vuol prendere voti ad Andria. Invece secondo me il tema immigrazione è stato centrale in queste amministrative, perché guarda che in quest'ultima settimana il governo del premier Camomillo, del Conte Gentiloni, guarda che ne ha fatte di ogni sull'immigrazione, pensalo gli Ussoli, loro hanno accelerato sulla cittadinanza ai figli degli immigrati, e questa battaglia, vedi, molto molto popolare, molto sentita dalla gente, del popolo, e li ha massacrati. Vabbè, ma dai, le elezioni sono quelle lì, però i comuni non hanno mica guardato ma non è che uno va a votare per il comune e pensa allo Ius Soli, dai, anche te. L'hanno punito il centrosinistra, l'hanno punito. Ma guarda, quest'ultima settimana ha fatto la roba delle banche, i soldi al fatto, lo Ius Soli. Ma la roba delle banche l'ha fatta sabato e domenica, però delle banche voglio parlare. Voglio capire Carlo Renzi cosa vuole fare. La moschea Cantù. Ho capito, ma queste cose a livello locale avranno avuto che l'immigrazione che ha stravolto. Ma secondo te, ma uno che va a votare all'Aquila pensava lo Ius Soli oppure pensava quello? L'Aquila ha dei buoni motivi per votare contro il governo. Mica per lo Ius Soli, mica per lo Ius Soli. No, ditevi. Allora, intanto c'è un messaggio, attenzione, di un ascoltatore che dice: è nata mia figlia Aurora. Facciamo così, dobbiamo andare al traffico e poi voglio capire le banche e poi la Rai, non lo so, c'è il Codacons che è scatenato sulla Rai, se la prende con Fabio Fazio, perché invidiosi del suo stipendio. Molto, molto. chiara manifestazione del maligno il Kodakons, che se la prende con il Fabio Fazio solo perché è ricco, solo perché ha tanti dollaroni. Vabbè, tra poco. Brum brum brum, c'è il traffico. Milan. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Milan, a proposito dell'attore investitore, ma di che cazzo state parlando? La storia del telefonino, mica telefonino. Quello era tossico e non doveva manco starci alla guida in quel momento. Il telefonino passa in terzo piano per questo omicidio qui. Ciao Milan, dai che anche oggi è una bella notizia che abbiamo salvato altre banche, dai. Mi sento felice, mi sento proprio orgoglioso. E basta con queste temperature, con sto grado di imbecillità. Quando saremo al governo non costringeremo più nessuno a votare una domenica di fine giugno con le scuole chiuse e 40 gradi all'ombra. Questo veramente mi sembra un'infamia che si possa risparmiare a tanta gente. Ragazzi, non è mai sorridente però, eh. C'è questo infamia. Perché non ride mai Renzi, secondo te? Che adesso, forse gli hanno detto che così ha più successo con la gente. Ma non mi pare. Ma io Berlusconi che ride sempre, beato lui. Abbiamo bisogno anche di un po' di allegria, no? Ecco. Berlusconi, vabbè. Perché non ride mai Aurora? Perché c'è poco da ridere? Ma che, ma no, ma ah, ma no, anche su quelle robe qui come fai a ridere? Poi su quella roba lì che abbiamo votato, dai, la prima volta che si è votato d'estate. Io qua a Cantù domenica sono andata ed eravamo una domenica di sole a 40 gradi, veramente, credo che nella storia repubblicana è la prima volta che si sia votato in estate. Vabbè. Comunque. Dai, ma sono disperata, ma dai. Comunque, sono disperati, gentiloni. Allora, qual è, allora oggi Padoan prende carta e penna e scrive al foglio e dice: altro che regalo, così abbiamo salvato le famiglie, abbiamo salvato gli sportelli, abbiamo salvato le persone, abbiamo salvato anche le regole. Non è vero che abbiamo non ho rispettato le regole, non è vero che l'Europa vieta aiuti di Stato se fatti tutti con le regole, rispettose, eccetera. Voi del Kodakons quante cause avete già aperto per questa roba? Dunque, no, noi abbiamo offerto, invece dei 5 miliardi che deve pagare lo Stato, lo facciamo noi con 4. 4? Sì. E dove li prendete questi soldi? Adesso troveremo dei partners. Tanto, un euro ci compriamo la parte buona, questa è la cosa più favolosa, no? Ecco, ma mica è un gioco, cioè, non è che poi dopo... Non è, ho capito, è una provocazione. Cioè, un euro si sono presi praticamente tutti i conti puliti, tutti i mutui pagati regolarmente, si sono presi tutte le cose parla buone. Anche Messina, numero uno di Intesa, ha detto: non l'avessimo fatto avrebbero perso allo Stato già 10 miliardi di garanzie. Non è un regalo, non è un regalo. Hanno fatto una beneficenza. No, una beneficenza no, una banca è un'impresa, un'azienda deve anche guardare gli utili, non è che è una beneficenza. Infatti, comunque, almeno i correntisti sono stati salvati. Però vorrei sapere il parere di Aurora Lussana. Finalmente arrivano un po' di soldi pubblici al Veneto, alle banche venete, alla gente del Veneto, così non ci fracassate più con sta storia che è vera. A parte che hai visto l'altro giorno in un camera, ha detto che se il Veneto fosse indipendente crescerebbe più della Cina. Non parlarmi a me di Lombardo Veneto oggi, che guai oggi, proprio eccola. Poi non parlare a me della Banca Intesa, perché quei 4 soldi che ho sono sul conto corrente della Banca Intesa via Roma di Cantù, quindi viva la Banca Intesa, che se mi manca anche solo un euro vado a prenderli. Bene, dai. Eccola. Beh, dai, è la prima banca italiana, ieri ha guadagnato il 3,50%. Ma borse. Ti ricordi che una volta era quella lì, era la Cariplo, ma mi sono andata lì perché era la banca lombardia, io pensavo che fosse la banca solo di noi lombardi, vabbè, ero giovane. No, viva la Banca Intesa. Come si chiama? Non ho capito cosa fanno qui del Kodakons. Quelle cose non lo so. Stiamo valutando il decreto. Attenzione, che se il decreto non viene trasformato in legge, è ovvio, decade. Salta tutto questo problema non è risolto. E com- comunque bisogna considerare che paghiamo noi questi soldi, non è che la paga Banca Intesa. 300 euro a cranio. È fondo, quindi 300 euro a cranio, ma tutti gli italiani, cioè non è una cosa. Bimbi inclusi, bimbi inclusi. Quindi questo non è una anche cosa Benedetta positiva, c'è già perché 300 euro. Quelli rubano, rubano a man bassa. E noi cacciamo i soldi per i loro furti. Puoi iniziare già a far risparmiare un po' sulle pappe a Benedetta, che c'ha già 300 euro sul gruppo, la piccola di Aurora, no? Così c'ha già, almeno comincia a stare un po' stretta nella pappa. Come va, tra l'altro? Come va? Parla, cammina? Beh sì, domenica ha festeggiato anche lei tre tette. Ma smetti. No, siamo... E adesso fa quasi un anno, quindi... E tra un po' cammina, Sì, no, già sgambetta, non so da chi ha preso, no, nel senso che sì, si muove troppo. Sì, non è molto contemplativa in questa fase. No, si muove troppo, rompe un po' i maroni, questo e ho usato un termine non a caso. Saluta Maroni. Salutiamo Roberto Maroni. Oh. Allora, invece l'altra questione per la quale il Colacon si è scatenato sono i soldi a Fabio Fazio, in Rai. C'è un problema veramente serio qui. E qual è? Questi ti fanno la audience e la fama sfruttando il servizio pubblico, poi lo ricattano perché dice se non mi paghi quello che voglio io vado via. E invece basterebbe fare come si fa, per esempio, nelle autorità indipendenti, cioè obbligare chi fa i contratti con la RAI a non poter andare alla concorrenza, lo prevede pure il codice civile, per almeno 5 anni se vanno via. Perché non è corretto. Fazio, te ne vai via dalla RAI, stai 5 anni, non so, a Telelombardia. Perché non è corretto quello che succede, assolutamente. Hanno superato e scavalcato di 11 volte il limite di legge per i compensi. Quella trasmissione è una chiacchierata seduti, dove si fa più che altro pubblicità ai libri gente va per fare pubblicità ai libri. Non si sono mai occupati dei problemi dei consumatori. Capito, ma fa il programma come vuole lui, mica come lo vuoi tu. Ma quello non è servizio pubblico. Ma perché adesso deve fare il programma per i consumatori, Fabio Fazio? Ma fanno finta che è un divo, cioè l'avvocatura dello Stato dice si può fare il superamento perché ci sono i divi. Lui e Vespa e qualche altro sarebbero dei divi di grande rilievo, ma se hanno fatto praticamente la loro fortuna grazie al nostro canone, al nostro pagare denunciamo, canone. Denunciamo. No, sì, infatti adesso oggi parte la denuncia. Infatti immaginavo fosse proprio un po' in ritardo di un attimo, ma è partita la denuncia. Non va bene, qua io devo chiudere perché il tempo corre, caro Carlo Rienzi, quasi omonimo, presidente del Codacons. Cara Aurora, ti lasciamo con il Van de Sfros. Un po' di bella musica. Van de Sfros. Saluti da Cantù. Che tutti sanno cosa vuol dire Van de Sfros. Vanno di Frodo, no? Vanno di Frodo, sì, rievoca un po' gli epici anni del contrabbando, no? Dall'altolario, le province dell'alta Lombardia, no? Confinavano in Svizzera, si faceva contrabbando. Van de Sfros, vanno di Frodo. È lì l'epopea del cinema. Vado avanti, violo le leggi. Via. Dai. Ciao Aurora, ciao Carlo, alla prossima. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta. Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, anche quelli di Roma, di Napoli, e me ci mettiamo pure quella della Sicilia, perché che se cazzo fanno schifo quella della Sicilia. 24 mattino. Siamo qui, sono le 7:20 minuti, me lo sapete che siamo anche in diretta video sul canale Facebook, sulla pagina Facebook di Radio 24 e sul nostro sito radio24.it. Saluto, guardando le telecamere, agitando la manina, tutti coloro che ci guardano in video, un bellissimo vedere. In questo martedì 27 giugno siamo pronti per la rassegna stampa di 24 mattino. Forza Peter, andiamo. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. E anche giugno quasi se ne va. Con le aperture dei quotidiani, il Sole 24 Ore si concentra sulle banche, le banche venete, la borsa promuove Intesa Venete. è il titolo di prima pagina, mentre sugli altri quotidiani si apre con il commento post amministrative. Corriere della Sera, dati del voto, polemica su Renzi. Per Repubblica, PD, Renzi è sotto attacco. Per Il Messaggero, Renzi sotto accusa, meglio soli. La Stampa, centrodestra, vittoria con i voti del Movimento 5 Stelle. Per Il Giornale, Renzi perde pure la testa. Libero, finita la festa, è subito caos. Mentre per Avvenire, i comuni cambiano, la politica arranca. Il titolo di apertura del Fatto Quotidiano, ma che trionfo di Berlusconi, vincono anti-Renzi e astenuti. Mentre Il Giorno è un colloquio con Renzi, il titolo, a sinistra si perde. L'apertura invece della Verità, ecco che cosa farà Berlusconi e come pensa di salvarsi Renzi. Infine Il Manifesto, l'isola del Giglio, è il titolo di prima pagina con una foto di Matteo Renzi con uno sguardo un po' perplesso. Come vedete, tutti analizzano l'uscita di Renzi e dopo vedremo esattamente cosa ha detto e quali sono gli umori per il segretario del Partito Democratico dopo questi ballottaggi. Intanto però voglio partire da questa inchiesta che continua un po' sotto traccia quando ci sono le amministrative o le politiche, quando si vota, le paginate di giornali obnubilano un po' tutte quelle che sono le altre notizie, ma questa inchiesta che riguarda Alessandria e riguarda Lara Bombonati col nome Khadija convertita all'Islam e che riguarda tutti noi perché si parla di possibili terrorismo, di intercettazioni che sono inquietanti e vengono pubblicate oggi sul Corriere della Sera con Elisa Sola a pagina 21. L'italiana in cella per Jihad che diceva bisogna fare piazza pulita di templi e sinagoghe. Gli uomini della Digos, scrive il Corriere, seguivano da tempo Lara Khadija, la sua conversione all'Islam, le nozze con il già islamizzato Francesco Cascio nel 2012 avevano attirato l'attenzione degli investigatori. L'elemento che conferma i loro sospetti è l'ingresso della giovane nel luglio 2013 nella chat delle sorelle musulmane gestita da Bushra Aik, canadese emigrata a Bologna, amministratrice su Skype delle future combattenti del califfato e di ISIS, così si chiamavano. In questa chat, la stessa in cui è entrata Maria Giulia Sergio, anche lei finita in un'inchiesta, Lara era l'utente Jalik. E cosa diceva? Beh, cosine del tipo loro bombardano le città e gli altri ricambiano. Allah ha creato la terra e la terra è sua. E ancora, il problema dell'ISIS è che si sono intrufolati i ragazzini, vanno là solo per le armi, perché fanno sparare, per fare i gangster e questa cosa è sfuggita di mano. Ma i doveri di chi serve Allah sono... Non si chiama la polizia quando ci sono di mezzo dei musulmani, in quanto tale io non sono soggetta a nessuno, solo alla legge divina. Altro nemico individuato in Israele, un gran classico. Ma chiunque in generale legifera al posto di Allah è una falsa divinità, così come lo è Erdogan in Turchia. E dopo c'è l'invito, fate piazza pulita di templi e sinagoghe. Queste sono le intercettazioni, leggetele e meditate. Pagina 21 del Corriere della Sera, questo è. Tra l'altro è una giornata in cui, giusto per fare un salto all'estero, legandosi per il termine religioso, non tanto per la vicenda in sé, è una giornata di vittoria per il presidente americano Donald Trump. Perché? Perché, come abbiamo sentito anche nel giornale radio, il bando anti-islamici ha ottenuto il primo sì dei giudici americani della Corte Suprema, che ha riammesso il divieto d'ingresso da sei paesi musulmani che era stato firmato da Donald Trump. I sei paesi sono Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen. Eccolo qui dunque il Muslim Ban. Una rivincita per Donald Trump, come racconta Giuseppe Sarcina sul Corriere a pagina 10. La Corte Suprema riammette l'ordine esecutivo del Presidente che vieta l'ingresso ai viaggiatori provenienti da 6 paesi, provvedimento che tornerà in vigore giovedì 29 giugno e durerà 90 giorni. Bloccati anche gli arrivi di tutti i profughi per 120 giorni a tempo indeterminato per i rifugiati siriani. Trump ha reagito dicendo: è una chiara vittoria per la nostra sicurezza nazionale. Come presidente non posso permettere che entrino nel nostro paese persone che ci vogliono far del male. Voglio gente che ama gli Stati Uniti e tutti i suoi cittadini e chi viene per lavorare duramente e in modo produttivo. Questo ha detto Trump. Il timore c'è che si rivedano un po' le scene di caos viste a gennaio negli aeroporti di primo sbarco, un po' c'è. Però vedremo nei prossimi giorni. Di certo un po' di confusione si vede nel confine Italia-Francia. Ventimiglia torna in qualche modo a essere veramente un paese, una città di frontiera in tutti i sensi. Perché? Perché ci sono tanti immigrati, alcuni che dicono abbiamo diritto ad essere considerati profughi, che vogliono andare in Francia e sono bloccati dai poliziotti. Si sono rimessi in moto. Ora vengono cercati con gli elicotteri perché sono un po' scomparsi nei boschi, la Francia è la loro meta, vengono aiutati anche da alcuni passeur, da alcune delle organizzazioni No Borders, cioè nessuna frontiera, e giustamente il secolo XIX, anche per vicinanza geografica, racconta in una pagina un reportage di Paolo Isaia e Patrizia Mazzarello qual è la situazione. In fuga per la libertà, i migranti in marcia lasciano il Parco Roia, il viaggio della speranza partito da Ventimiglia. La marcia dei migranti comincia all'1:30, prima che all'accampamento abusivo sul greto del fiume Roia arrivino vigili e operai del comune per sgomberare tende e giacigli di fortuna. Un'operazione annunciata per porre fine a un'emergenza che, oltre a essere umanitaria, ormai è igienico-sanitaria. Ci sono 300 persone che dormono da settimane per terra senza acqua, se non quella del torrente. Figuriamoci servizi igienici o altro. Il piano probabilmente era preparato da giorni. Ai profughi si unisce un gruppo di No Border, pare dalla Germania. Tra loro anche una italo-marocchina di 24 anni, Sara Amsawi, arrivata a Ventimiglia da Milano. A lei spetta il compito di parlare con i migranti in arabo e a guidare almeno una parte di loro verso la Francia. La rotta sembra tracciata, a risalire la statale, prima di Olivetta San Michele lasciare la strada, inerpicarsi sui sentieri verso il Monte Grammondo e da lì scendere fino a Mentone in Francia. Ma dopo un centinaio di metri la carovana incontra uno sbarramento di poliziotti, carabinieri, baschi verdi. Dopo un momento di stallo partono i lacrimogeni sparati per convincere i profughi a tornare indietro. Da lì la confusione, il vescovo anche dice: speriamo che in Francia possano aprire le porte. La situazione rischia di diventare come qualche anno fa, poi non si è mai normalizzata, ma rischia di diventare una situazione ancora complicata. Per la cronaca, ogni giorno c'è invece l'aggiornamento su quello che succede a Domenico Diele, attore che in un incidente stradale ha travolto una persona, Ilaria Di Lillo, 48 anni, uccidendola, e Marco Diele, come avete forse ormai capito, era con la patente sospesa. Lui dice: mi sono distratto col telefonino. In più c'è da dire che ha ammesso di essere eroinomane, la patente era sospesa proprio perché in precedenti controlli si era certificata la sua tossicodipendenza, e in più aveva anche un'auto non assicurata. Vabbè, questo tra tutte le vicende è perfino la vicenda meno grave, non che non lo sia, ma rispetto a quello che è successo, e cioè l'uccisione di Ilaria Di Lillo, è quella meno grave. La novità è che Diele aveva ottenuto i domiciliari. Tra la rabbia dei parenti, è una vergogna, torna a casa. Ecco, c'è da dire che bisogna capire tutto, anche pensare il scarcerato torna a casa, quando gli arresti domiciliari sono una forma di detenzione, semplicemente non in carcere ma i domiciliari. Certo, io capisco che c'è la sensazione di dire: ah, soffra dietro le sbarre, ma questo non dovrebbe valere per nessuno, la rabbia di dire soffra dietro le sbarre. La detenzione, gli arresti domiciliari è una detenzione quindi è come se fosse in carcere ma agli arresti domiciliari, quindi non è che se ne va a casa libero e bello, che può girare per il mercato a fare compere. Comunque ai domiciliari, ma manca il braccialetto elettronico, e quindi mancando il braccialetto elettronico i domiciliari sono sospesi, per il momento rimane in carcere, ma il giudice ha concesso a lui i domiciliari. Tra la rabbia dei parenti, appunto, lui che anche pare in una dichiarazione, questa sì un po' forse fuori di senno, abbia detto fatemi finire il film, visto che ho iniziato le riprese di un film, che sinceramente non è la cosa, come dire, più urgente a questo punto. Comunque Diele va dai domiciliari, ma non c'è il braccialetto elettronico e quindi per il momento rimane in carcere in attesa di trovare un braccialetto elettronico, dopodiché dovrebbe andare appunto ai domiciliari. In ogni caso, l'articolo invece che mi fa pensare della giornata è questa follia che a ogni estate esce con ordinanze dei primi cittadini. Io non lo so se giocare a calcio per strada sia diventato pericoloso oppure no. Certamente se si gioca a calcio per strada sotto una vetrata e magari la si spacca, si dà fastidio e si crea un po' di livore nella persona che vede la propria vetrina infrangersi. Però multa se giochi a pallone per strada, racconta Claudio Smetti su Libero, che sempre più località, da Lissone in Brianza a Villafranca, Verona, Campo Dolcino in provincia di Sondrio, vari sindaci hanno dichiarato guerra al calcio, al pallone per strada. Sempre più le località che vietano ai bambini di improvvisare sfide calcistiche con sanzioni che arrivano a 500 euro. Ma chiedetele ai bambini di 12 anni le multe di 500 euro. Spaccate i loro salvadanai, sindaci. A questo siete ridotti. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora. Ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, la roulette russa dell'informazione. Mannaggia, che pericolo. Allora, alle 7:37 minuti, la notizia politica del giorno sono i commenti post-amministrative con le varie dichiarazioni dei vari leader politici. Intanto ha fatto un po' di stupore tra tutti il fatto che Renzi abbia dichiarato di fatto di non avere perso. Renzi rivendica il PD resta avanti, l'ironia della rete, le accuse dei rivali. Che cosa ha prodotto Renzi? Ha fatto vedere questo questo grafico di YouTrend nel quale ci sono i numeri. I numeri che ci ha snocciolato ieri anche il responsabile enti locali del PD qui, Ricci, e cioè risultati a macchia di leopardo, così dice Matteo Renzi, risultati a macchia di giaguaro, ironizzano in rete, come scrive Alessandro Trocino sul Corriere della Sera, ovviamente evocando il giaguaro da smacchiare di bersaniana memoria. Renzi cita questo grafico di YouTrend secondo il quale nei comuni sopra i 15.000 abitanti il centrosinistra si è aggiudicato tra primo e secondo turno 67 amministratori contro i 59 del centrodestra, 8 del Movimento 5 Stelle e 20 delle liste civiche. Insomma, dice Renzi, i risultati delle amministrative sono a macchia di leopardo, come accade quasi sempre per le amministrative. Questa è la dichiarazione pubblica. Beh, di pubblico Renzi dice anche qualcosa al Giorno. Il Giorno è il giornale che lo, non dico intervista, è quella formula, il colloquio di Andrea Cangini a pagina 2. Ebbene, Renzi esordisce così: io sconfitto? Non mi pare proprio. Si conferma la tesi che i migliori amici del Berlusca sono i suoi nemici. È stato infatti ancora una volta dimostrato che quelli che invocano una coalizione di centrosinistra larga il più possibile fanno il gioco del centrodestra e non del PD. Questa è la linea di Renzi, che sembra così voler allora rottamare tutti i discorsi sulla coalizione, il discorso del Vinaville Prodi, il discorso del rimettere insieme i cocci. Quello che colpisce, scrive il Giorno, Andrea Cangini, è che parlando con i parlamentari a lui più fedeli, Renzi usi l'espressione uno di noi quando si riferisce a un candidato renziano e uno degli altri quando si tratta di un esponente della minoranza. Due mondi a confronto. a trionfare, commenta ancora Renzi, è stato il modello Toti, non Berlusconi. Ma l'alleanza tra Forza Italia e Lega con Salvini in posizione egemonica. Perciò mi chiedo, siamo sicuri che Silvio Berlusconi sia contento? E anche sul Corriere della Sera c'è un Renzi che, titolo di pagina 4, dice addio al modello Prodi. Dobbiamo tornare alla rottamazione. A questo punto, nell'articolo di Maria Teresa Meli, spiega il segretario ai suoi, l'unica soluzione è darsi un profilo netto come partito, tornando alle origini, alla rottamazione. Saremo una forza riformista che si tiene lontana dai tatticismi politici. Per questo non ci faremo coinvolgere in trattative per la legge elettorale o altri giochini parlamentari, e anche con il governo avremo un rapporto franco, autonomo e diretto, ma sempre leale. Anche per Repubblica, retroscena di Goffredo De Marchis, la linea è questa. I renziani dicono non parlategli più di Pisapia e di coalizioni, perché non ne vuole più sentire. Non siete abbastanza contenti, cari ascoltatori? Il Messaggero, pagina 7, il modello Pisapia va a pezzi, basta parlare di coalizione. Così Renzi analizza la batosta con i suoi. Eccolo qui. In tutto questo Berlusconi ora invece è alle prese con un Salvini sempre più preponderante, pare, nella coalizione. Salvini che dice la matematica non è un'opinione, nei grandi centri in cui si è votato siamo noi il primo partito. Berlusconi che richiama alla coalizione, ma che sia liberale e moderata. E dall'altra parte Beppe Grillo, Movimento 5 Stelle, che richiama alla compattezza. Compatti o sarà una disfatta, così Grillo ai suoi. Ma come vedete sono tutte analisi post voto. Tra l'altro, a proposito di analisi post voto, attenzione, dovremmo mettere il bollettino elezioni. Il bollettino elezioni di questa mattina alle 6 alla lettura dei giornali diceva si va a votare presto. Il bollettino è tornato su questo. Prossimo aggiornamento del bollettino elezioni alle ore 15. Vedremo se alle ore 15 sarà sempre un si va a votare. In tutto questo del Movimento 5 Stelle c'è da far notare un'intervista al neo sindaco di Guidonia. Neo sindaco di Guidonia, che è del Movimento 5 Stelle e che però, attenzione, dice sono un fan di Pizzarotti. Quindi piccoli problemi, ci sono stati dei problemi sulle elezioni per il Movimento 5 Stelle. Michel Barbet, sindaco 5 Stelle di Guidonia, che ha vinto il ballottaggio, dice Grillo mi ha chiamato, in realtà no, però mi hanno chiamato in tanti, ho ricevuto un sms da Di Maio, ho sentito Roberta Lombardi, mi ha chiamato anche Virginia Raggi, a un certo punto dice Pizzarotti è ancora un pochettino nostro, son contento che abbia vinto. Ma scusi, lei le piace Pizzarotti? Molto, è un ottimo amministratore, tant'è vero che è stato rieletto. Non so cosa sia successo con Grillo e perché lo ha lasciato andare via, sono dinamiche interne che non conosco. Quindi uno di quelli che ha vinto il Movimento 5 Stelle ha detto, neo sindaco di Guidonia, ma io sto con Pizzarotti. E va bene, confusioni post-elettorali. Il bollettino, ripeto, delle 6 dice si vota presto. Alle 15 vedremo, anche alle 19 faremo un altro bollettino, 3 in giornata per capire com'è la situazione. Vero Mauro Meazza? Ma certamente, caro Alessandro. Certamente. Anche se non eri d'accordo, dovevi dire di sì lo stesso. No, no, no, ma sono d'accordo anche perché bisogna che aggiorniamo prima delle 21 di stasera. È chiaro, che succede? Perché poi alle 21 cosa succede? Ah, certo, la Wonder Night. Wonder esattamente. Night. Signore, è tutto esaurito, ti dico solo no, questo. No, tutto esaurito. È tutto esaurito. Come nei migliori derby delle migliori stagioni, è tutto esaurito. Di quando eravamo davanti. È tutto esaurito. Davanti. È tutto esaurito. Meno male, va bene, allora questa è una ottima notizia. Ti dico invece qualche cos'altro, oggi è martedì, sì. E quindi come puoi ben immaginare c'è il condominio, a proposito di derby, esatto, no, ma a proposito di derby te lo dico perché oggi parliamo delle ferie del portiere. Donnarumma? No, si intende il custode naturalmente, però è importante perché ci sono appunto alcuni vincoli, alcune regole dal contratto nazionale oppure possono essere state decise dall'assemblea, insomma tutti i particolari sulla pagina odierna di condominio. Ti piace odierna? Odierna, bello. Mi sembra un aggettivo molto versatile. Rispolveriamolo. Oh, e poi senti, aiutami un attimo perché sabato è il primo luglio. Sì. E questo, vabbè, si sapeva. Cioè, l'ho detto sulla fiducia, adesso non... No, no, guarda, è il primo luglio, però questa cosa si sapeva. Quello che forse potevamo non sapere è che sarà una giornata decisiva? Decisiva, ma sai perché? Perché? Perché contemporaneamente deve debuttare il nuovo meccanismo di split payment. È una questione che riguarda l'IVA, se è stata allargata la platea dello split payment. E quindi, guarda, ti assicuro che i nostri amici che si occupano di fisco sono abbastanza preoccupati di questo dato. E poi deve debuttare la nuova agenzia delle entrate riscossione, cioè la nuova Equitalia, insomma, per capirci. E allora, però le cose non vanno così lisce, né sull'uno né sull'altro verso, come leggerai oggi dalle pagine Norme Tributi, che tu compulserai doviziosamente. Vabbè, insomma, d'accordo, fa quello che vuoi, l'importante è che tu le legga, perché sia sull'uno che sull'altro fronte, ti dicevo, ci sono un po' di problemucci, in particolare per l'agenzia, invece di incertezze per quanto riguarda lo split payment, anche con le grandi televisioni. Perché lo split payment riguarderà anche i fornitori di audiovisivi. Ma vabbè, che te lo dico a fare, è tutto scritto su Norme Tributi. Oh, poi ti voglio segnalare anche che è in arrivo, forse già oggi, forse domani, un multone colossale della Unione Europea, della Commissione UE, a Google. Non so se hai colto sul Sole 24 Ore oggi, sulle pagine di Finanza. Eh sì. Ecco, allora sappi, stai in campana, potrebbe già arrivare, diciamo, speriamo prima delle 9 di stasera, ecco, perché poi abbiamo da fare. Ti segnalo da ultimo, ma non per questo meno importante, visto che delle banche venete già hai detto, segnalo anche che nelle pagine 2-3 ci sono delle domande e risposte a ciò che tu possa comprendere adeguatamente ciò che è successo e che sta per succedere. Ti segnalo questo strano crash, questo crollo improvviso dell'oro, di cui scrive Sissi Bellomo nelle pagine di Materie Prime. Forse è stato un errore, uno ha digitato uno zero di troppo sulla tastiera. È una cosa che in questo mondo così rutilante della finanza, come dire, fa sempre un po' sorridere, meno quelli che naturalmente possedevano oro. E a questo punto ci vediamo stasera, caro Alessandro e cari ascoltatori. Traffico! Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Oh Lino, dico, a te sei proprio imbriaco di mattina buonora, eh? Ma proprio te sei imbriaco, te ne hai bevute ombre. Va bene, faccio un po' fatica a rispondere, per le ombre che ho bevuto, sì, io, certo. No, diceva giustamente Mauro Meazza che sulle banche venete ci sarebbe molto da dire, c'è molto da dire, sui giornali è molto scritto, Gianni Trovati racconta a pagina 2 del Sole 24 Ore i 9,9 miliardi attesi dalla vendita dei non performing loans. Gentiloni che dice nessun regalo ai banchieri, ma soprattutto gli articoli che vi voglio leggere sono due, e cioè sul foglio c'è una lunga lettera del ministro del tesoro Padoan, che prende carta e penna per fare chiarezza dal suo punto di vista e raccontare quello che succede. Dopo un lungo prologo a spiegare come mai si è arrivati al prefallimento delle banche venete, il ministro Padoan scrive: arriviamo a domenica, il governo ha avviato le due banche alla liquidazione, ma una liquidazione pura e semplice avrebbe comportato una crisi drammatica per un territorio che sta trainando l'Italia nella ripresa economica, dato che le due banche avevano tra loro clienti 200.000 imprese, avrebbe creato disagi tra i correntisti, depositanti, risparmiatori che hanno investito in obbligazioni di quelle banche, avrebbe probabilmente costretto l'intero sistema bancario a sobbarcarsi il costo della tutela obbligatoria dei depositanti. Per questo abbiamo deciso che la liquidazione andava assistita da aiuti di Stato, che, contrariamente a quanto spesso erroneamente si sostiene, non sono vietati in Europa purché vengano erogati rispettando regole precise. Gli aiuti di Stato hanno reso possibile l'acquisto da parte di Banca Intesa di un complesso aziendale che salva migliaia di posti di lavoro, garantisce continuità di credito per le imprese e gli artigiani e prevede disagi alle famiglie e risparmiatori. Poi Padoan, più avanti, dopo aver dato la sua ricostruzione, risponde: abbiamo violato le regole e ucciso l'unione bancaria? Mai. lo dicono le stesse autorità europee. Piuttosto, ancora una volta, constatiamo che l'unione bancaria non è ancora completata dal necessario schema di assicurazione dei depositi. Ci siamo sottomessi, senza battere i pugni sul tavolo, alla volontà delle istituzioni comunitarie. Che i critici si mettano d'accordo tra loro. Abbiamo ucciso l'unione bancaria o ne siamo succubi? Leggendo i commenti si intuisce che qualcuno vorrebbe finalmente far fallire una banca in crisi giusto per vedere che effetto fa, laddove altri vorrebbero che il governo nazionalizzasse gli istituti problematici. Mi pare che nessuna delle due posizioni sia razionale. La prima, perché sarebbe da scellerati rischiare di innescare una crisi finanziaria. La seconda, perché il denaro dei contribuenti non va usato per salvare banche, bensì per produrre servizi pubblici e beni comuni. Questo Piercarlo Padoan sul Foglio, mentre Repubblica intervista il numero uno di Intesa San Paolo, Messina. Francesco Manacorda inizia così: buon Natale, dottor Messina, anche se è giugno. No, guardi, risponde Messina, il Natale per Intesa San Paolo anche quest'anno è il 25 dicembre. Noi stiamo facendo un'operazione che aiuta risparmiatori, clienti, dipendenti in territori importanti e che contribuisce anche a rafforzare il sistema creditizio d'Italia. Ma come? Un regalo come quello che vi è arrivato con la parte sana delle banche venete è una dote statale da 5 miliardi? Non capita certo tutti i giorni. Nessun regalo, risponde Messina. Su questo voglio essere chiaro, parlando sul serio le dico che la nostra banca non ha chiesto di comprare le attività delle venete, ma è arrivata questa operazione dopo essere stata chiamata dall'advisor del tesoro a partecipare a un'asta, asta a cui si sono presentate altre primarie banche internazionali. Cioè, scrive Manacorda, BNP Paribas, Credit Agricole e anche Unicredit, che è andata a dare un'occhiata. E da noi è arrivata l'unica offerta completa. E poi Messina dice: bisognerebbe capire cosa sarebbe successo senza la nostra offerta. Corsa agli sportelli delle banche venete, effetto domino su altri istituti, necessità di rimborsare i correntisti sotto i 100.000 euro con il fondo interbancario obbligatorio che avrebbe dovuto trovare in fretta 12 miliardi e mezzo, necessità di reintegrare il capitale di queste banche con ulteriori effetti contagio. In questi ultimi mesi, ancora continua il numero uno di Intesa San Paolo, le due banche venete hanno avuto bisogno di interventi sostanziosi a sostegno della liquidità. Si tratta di 10 miliardi di titoli emessi dalle banche, collocati presso investitori istituzionali, garantiti integralmente dallo Stato. Ecco, se oggi le banche fossero fallite, i 10 miliardi di garanzie pubbliche sarebbero andate a coprire le perdite di chi aveva i titoli e si sarebbe trattato di 10 miliardi di soldi pubblici in fumo. Ecco da qui il titolo dell'intervista, pagina 13 di Repubblica: senza di noi lo Stato avrebbe perso subito 10 miliardi di garanzie. Anche sull'acquisto a un euro, dice Messina, con questa operazione noi mettiamo in sicurezza molte persone, in primo luogo le famiglie venete, il loro risparmio, parliamo di 30 miliardi di raccolta diretta che sono nelle due banche e di 20 miliardi di risparmio gestito. Quanto agli azionisti nostri che vogliono il dividendo, certo, ci mancherebbe altro, risponde Messina. L'impegno con gli azionisti è il punto di arrivo dell'operazione, non quello di partenza. Non mi vergogno mica a cercare di agire a favore dei lavoratori e dei clienti delle venete, garantendo anche i miei clienti e i miei soci. Siamo un soggetto di mercato e non la Cassa Depositi e Prestiti. Questo dunque Messina, intervistato da Repubblica. Va bene, dai, siamo agli sgoccioli, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, eccolo qua, esce Karma Express, il romanzo di Romina Power, una pagina, Gianluca Veneziani su Libero, le confessioni di Romina che parla di tante cose, dell'Islam radicale e di Albano. Ma chi se ne frega?